durante il corso della settimana, già trovato la possibilità di recuperare, l'abbiamo ancora metà del corso, quindi vorrei collaborare in questo senso qui con la vostra buona disponibilità. Fortunatamente nelle prime giornate di gennaio dovremo fare qualche lezione, molto poco l'anno scorso. Quest'anno ci sono stati dei contrattempi di peso, diciamo così, notevole, perché avanti un po' di più, questo peraltro, ecco. E comunque vediamo dove eravamo rimasti. Dove eravamo rimasti, e in particolare io oggi volevo considerare una poesia breve, molto breve, è molto interessante, molto difficile, che però qui non ho la pagina. È Minut, la mia è 124, forse la vostra è 192, guardate un po'. Sì, 192. Ed è una poesia che ci offre molte possibilità di riflessione. Una poesia che vedete in quattro versi. Questi quattro versi poi sono, come vedete, spaziati l'uno all'altro, per metterli nel più didattico, nel più evidente, dobbiamo considerare questo tipo di cose. Il titolo è Minut, la poesia dice così: il n'est pas encore revenu, mais qui dans la nuit est entré, la pendule, le drame en croix, s'est arrêté. La traduzione è: non è ancora ritornato, ma chi nella notte è entrato, il pendolo con le braccia in croce si è fermato. È una poesia che potrebbe indurre a scarse considerazioni, e in effetti dovrei pensare che questo tipo di poesie qui, parlo di Ravertini, ma anche di altri poesi, sono state in realtà pochissimo commentate, quindi sono davvero anche un campo fertile, un luogo fertile dell'ingegno, insomma. Cosa vuol dire una poesia di questo genere? Cosa significa? Ma un indizio, un primo indizio è rappresentato da questo minute, da questo minuto. E forse la cosa migliore sarebbe considerare questo minuto in contrapposizione con gli ultimi due versi, che il terzo e il quarto, che sono: il pendolo con le braccia in croce si è fermato. Incrociare le braccia è addirittura un linguaggio che viene normalmente usato quando, non so, c'è uno sciopero, quando uno smette di lavorare. Quindi il pendolo smette di lavorare, quando la nostra vita smette di lavorare, a questo punto si ha le braccia in croce e quindi inizia un tempo che non è un tempo, un tempo che può durare infinitamente. Una persona defunta ha le braccia in croce come per segnare il fatto che non parteciperà più alla vita del mondo, è il grande spazio dell'eternità che ha davanti. E allora lo spazio dell'eternità viene messo in una sorta di collisione, entra in una sorta di collisione con questo spazio invece che, mentre quello dell'eternità non è calcolabile, questo invece è assolutamente calcolabile ed è emblematicamente il più piccolo, insomma. Tra i più piccoli poi ci sono il minuto secondo, eccetera, insomma, ma il minuto. Che rapporto c'è tra minuto e eternità? Tra minuto ed eternità. Apparentemente si tratta di elementi che sono contrari tra di loro. Però se noi consideriamo cos'è un minuto, cos'è un minuto? Pensate per esempio un minuto che uno trascorre nell'amore. Questo minuto che uno trascorre nell'amore, che potrebbe anche essere semplicemente la rivelazione di una situazione amorosa, e allora basta anche meno di un minuto, naturalmente, una confessione, magari lungamente agognata, che sono passati mesi, anni, senza che questa confessione fosse mai stata effettuata per pudore, per vilezza, per paura, per ritegno. E poi avviene in un minuto. Come dico, più o meno in un minuto, basta una parola. Ma allora quanto conta? Oppure pensate al minuto che precede la dichiarazione di una sentenza, la proclamazione di una sentenza che può essere la sentenza di un processo. Pensate all'imputato, tritto davanti ai giudici. E qui, a volte, il tempo occupato è assai meno di un minuto, forse di più, ma direi emblematicamente è uno spazio breve rispetto magari ai lunghi anni che hanno preceduto questa dichiarazione di condanna, ovvero di assoluzione. Quindi vedete che il minuto è un termine che si dilata enormemente, oppure una sentenza di una analisi, non so, clinica, insomma, tu aspetti e dopo un minuto arriva questa dichiarazione. Pure un minuto, possiamo dire, quando uno attende una persona cara, questa è una delle condizioni più sconvolgenti, insomma, dipende poi dalla natura, dal carattere della persona, della vita, quando la persona cara non arriva, quando la persona cara non arriva, allora un minuto quanto dura? Un minuto è infinito. Noi spesso prima di prendere una decisione, per riprovare a metterci in contatto, che so, a telefonare, eccetera, decidiamo di aspettare un altro minuto, ma questo altro minuto che ci siamo prefissi come termine non passa mai, insomma, non passa mai. Certo, il nostro rapporto con il tempo è un rapporto comunque intenso. Può essere doloroso, può essere felice, insomma. Ma quando, insomma, trasvolare, semplicemente accennando ad un altro discorso, quando nel suo libro più importante, uno dei più importanti del Novecento, che è Sein und Zeit, cioè essere e tempo, Heidegger parla del fatto che l'essere è impastato di tempo, capovolgimento rispetto alla metafisica tradizionale, in quanto che la metafisica tradizionale invece riteneva l'essere in qualche modo ontologicamente bloccato, fermo, fisso, invece l'essere è impastato di tempo. Questo è un discorso bellissimo e fra l'altro è un discorso che io vi consiglierei di approfondire anche in modo propedeutico. Di leggere, anche perché non sareste in grado probabilmente di comprenderlo nelle sue. Ma un'introduzione Heidegger, per esempio quella che si trova dalla terza nei libri arancioni, quella fatta da Vattimo, è fatta molto bene e mi aiuta a capire, insomma. Quello che è importante è avere dei punti di riferimento essenziali. Quando si lavora, quando si studia, sapere i giusti libri da leggere, una cosa che non mi stancherò mai di dirvi, che proprio bisogna avere delle. Non leggere dei libri che appartengono a questo mai, insomma, appartengono alla modernità, alla contemporaneità, così in modo acritico, ma leggere certi libri fondamentali. Una volta avevo dato a questo proposito un consiglio, nelle Garzantine, che sono uno strumento preziosissimo, ci sono alla fine gli assunti dei libri più importanti. Quello può essere un buon modo per poter orientarsi. I libri che sono lì sono libri che danno una garanzia. E adesso considerando, dopo il minuto, considerando l'opposto, cioè il pendolo con le braccia in croce, cioè considerando l'eternità, ma che senso ha parlare di eternità in effetti? È un concetto in fondo di cui è possibile parlare, insomma, no? Una cosa che è un concetto che fa male, fa male anche da un punto di vista psicologico, da un punto di vista fisico, fa male parlare di eternità, insomma. Ci sono state delle battaglie a favore dell'abolizione dell'ergastolo, e tutto questo sono anche creati infiniti problemi, ma proprio perché nella cartella, per così dire, del condannato all'ergastolo, quando c'è scritto fine della pena, avanti, sì, quando c'è scritto fine della pena è detto ma ha senso parlare di eternità? L'eternità forse uguale al minuto, forse tra eternità e minuto non c'è alcun differenza. Eternità è niente. Direi che una delle paure nei confronti della parola eternità è proprio il fatto che non è un niente, è un niente. Noi non possiamo avere a che fare con il niente, cioè con il non niente, vuol dire non ente, non ente. Tutto quello che è non ente è spaventevole per l'essere umano, insomma. Anche per esempio ci sono dei rapporti affettivi che non vengono, che rimangono in una zona di ambiguità, che ce lo riconosciamo queste cose, e ci fanno quindi molto soffrire. E perché ci fanno soffrire? Perché sono destabilizzanti. Perché sono destabilizzanti? Sono destabilizzanti perché non c'è una entità dentro, perché sfuggono, no? Il niente, in fondo, è il nostro, la paura di morire, è la paura naturalmente del niente. E direi da questo punto di vista è interessante anche fare qualche considerazione, per esempio, sull'eternità di felicità che viene promessa, per esempio, nella religione, insomma. Ma siamo proprio sicuri di volere un'eternità di felicità? Per esempio, secondo la religione cristiana, uno nell'eternità dovrebbe elogiare l'io sempre. Ora, elogiare l'oggetto d'amore, che specie di Dio, è una cosa bellissima. Direi la più grande gioia dell'amore è elogiare l'oggetto d'amore, elogiarlo, però no, lodarlo. Ma noi riusciamo a immaginare un piacere di questo genere all'interno di un tempo determinato. Se decidessero di farlo sempre, di farlo sempre. Possiamo accettare un fiore che non appassisca? Vediamo se fosse una splendida rosa, però non appassisce. Tanto è vero che quando abbiamo dei fiori finti, per esempio, con cui abbiamo a che fare, li accettiamo come fiori finti e ci piacciono, però sentiamo la nostalgia, per così dire, di una vita che non c'è, no? Annusiamo, sapendo che sono fiori finti, questi fiori finti, come per aspettarci una promessa di vita. I fiori sono finti, quindi dureranno sempre. In questa poesia è lumeggiato e adombrato questo contrasto fra la parola, il concetto di eternità, queste braccia in croce del pendolo, e il minuto. La parola braccia in croce poi naturalmente attraverso metonimie varie fa pensare proprio a com'è un pendolo ha una sbarra. E poi in fondo c'è un peso rotondo normalmente, quindi non sono delle braccia in croce, però quando il pendolo si muove noi abbiamo diciamo, un'idea, sia pure meccanica, di vita. Le braccia in croce sono un segno di non vita. Guardate tra l'altro come l'ultimo verso, se darete, è una posizione centrale, come per chiudere, come per bloccare il tutto. La sapienza di questa poesia è straordinaria. Se adesso andiamo a considerare gli universi, vediamo una carissima costruzione. Dice: non è ancora ritornato, ma chi è entrato nella notte? Come sapete, punti interrogativi sono assenti. Questa è una pratica che nell'avanguardia è abbastanza diffusa, quella di togliere segni di interpunzione. Apollinaire non ha messo in questo libro, è di qualche anno dopo Apollinaire, agli alcol, quindi segni di interpunzione non ce n'è. Tutto questo è anche molto bello, perché in fondo la posizione del verso nello spazio e direi il rapporto del verso con altri versi è già di per sé segna un segno di interpunzione. Non c'è bisogno di punte di regolativa. Più tra l'altro da questo tipo di struttura, notate la grandissima novità di questa poesia francese, ed è interessante sempre fare un contrasto con la poesia italiana, per esempio, da dove siamo italiani, ma è sempre bene considerare la letteratura straniera da un altro punto, dal punto di vista loro, nazionale. Noi abbiamo avuto dei sviluppi poetici nell'Ottocento molto più rallentati degli sviluppi della poesia francese. Come ho detto più volte, noi avevamo Carducci, ma anche Pascoli, pure è stato uno straordinario innovatore, però più da un punto di vista di un'invenzione delle parole, se vogliamo, che da un punto di vista più interiore, di invenzione di una nuova dimensione poetica, insomma. Poi direi che abbiamo guadagnato, abbiamo riacquistato il tempo che avevamo perso con l'ermetismo della poesia italiana, e da allora in avanti ci sono delle grandi cose. Che è Montale, Ungaretti, insomma. Ma nell'Ottocento c'è stato veramente un contrasto tra uno sviluppo veloce della poesia francese e invece una poesia italiana molto rallentata nel suo cammino verso la modernità. Guardate questi versi: non è ancora tornato, ma chi nella notte è entrato? Qui è un contrasto che ripete il contrasto centrale tra eternità e minuto, ma è un contrasto curioso, perché avremmo dovuto aspettarci non è ancora uscito, ma chi nella notte è entrato, no? L'opposizione di per sé è tra entrare e uscire. Questo spostamento, questo bellissimo spostamento, questo bellissimo spostamento ci fa capire che la situazione che è avvenuta è questa: qualcuno è entrato, e questo è il dato che mi esplicito. Qualcuno è uscito, ma questo è dato invece come implicito. Questo stesso qualcuno non è ancora rientrato. Chiaro il punto? Il secondo membro è assente, ma l'assenza del secondo membro è quello che ci aiuta a dire che si tratta di una poesia che vuol farci capire che cos'è l'esistenza, no? Se noi avessimo detto, lui avesse detto, non è ancora tornato, non è ancora uscito, ma chi nella notte è entrato, noi avremmo avuto, per così dire, una contrapposizione meccanica: uno che entra e uno che non se ne va. Ma questa contrapposizione meccanica, e sarei per dire logica, perché il verbo entrare si oppone al verbo uscire, non dà conto dell'esistenza, che non è logica. Allora, per far sentire l'esistenza, si inserisce questo termine secondo, implicito, che è l'uscire, ma non se ne parla. Allora, lavorando un po' su questo concetto, vengono fuori delle cose interessanti, insomma. Dell'esistenza, si potrebbe fare questa piccola chiosa, dell'esistenza non si parla. Non si parla, ma c'è. Noi stiamo esistendo in questo momento, ma non parliamo. E direi che sarebbe molto strano, molto buffo che sottolineassimo il fatto di esistere, no? Se le persone che sono qui presenti tutte accennassero disperatamente al fatto di esistere, anzitutto avremmo una mancanza di sviluppo della nostra esistenza. Siamo fermi, come dire, a una sorta di metalinguismo esistenziale, nel senso che affermiamo io esisto, insomma, ci sarebbe possibilità di sviluppo. Diciamo che noi diamo l'esistenza in questo momento come cosa scontata. Il nostro corpo funziona, i battiti del nostro cuore segnano naturalmente la nostra vita. L'esistenza viene affermata qui in questa poesia proprio negando il passaggio logico. Il passaggio logico sarebbe entrare e uscire. Negando questo passaggio logico e mettendo in mezzo, implicito, è chiaro, no, quello che dico, il fatto che è uscito, ma non lo si dice che è uscito. Questa è l'esistenza. Io mi parlo degli esempi in questo senso qua, insomma. Pensiamo che io abbia, sempre i soliti esempi della vita affettiva, abbia un amore per una persona, non dico questo amore a questa persona per tanti motivi, e quindi tutta questa storia dell'amore non detto a una persona non rimane implicita. Però in questo momento, trovandomi di fronte a questa persona, la bacio sulla bocca. Dalla posizione A, cioè dalla posizione in cui io ho cominciato il mio rapporto con la persona, alla posizione B, cioè al fatto che bacio sulla bocca questa persona, beh, c'è stato un qualcosa che anche lui non si è anche elaborato, ma ci verrebbe abbastanza sorridere, mi sembra l'idea di una persona che non sia un matto, o un maniaco, o un giocherellone, giù per lui, incontra una persona e la bacia sulla bocca, no? L'esistenza che condiziona così profondamente la nostra vita, che è la nostra vita vera, riflessa, l'esistenza nella sua densità straordinaria, l'elaborazione di un amore per la persona che ci porta a baciarla, l'esistenza è implicita. Questo è il punto sostanziale. L'esistenza è implicita. Allora noi non abbiamo una contrapposizione tra entrare e uscire. Il termine sono uscito viene messo tra parentesi, tra parentesi detto è uscito, fuori dalla parentesi metto non è tornare. Quindi c'è una contrapposizione a questo punto fra una invasività, la persona che è entrata, poi non c'è nessuno, adesso la persona è entrata, e un'assenza, la persona in questo momento non c'è. Questa contrapposizione più articolata ci fa sentire il peso dell'esistenza e non ci farebbe sentire invece il semplice movimento: questa persona c'era, è entrata e adesso è uscita. Ora, chi è entrato? Chi è? Stando sempre alla vita affettiva entra dentro di noi, per esempio l'amore o la malattia. Io non sapevo di avere una malattia, so che ho una malattia. Io non sapevo di amare, so di amare. E notate la finezza con cui questi verbi così semplici, entrare, uscire, eccetera, rappresentano una situazione grossa, importante. Ravelli non usa, e qui è una delle caratteristiche molto interessanti, insomma, proprio diversamente dai simbolisti, che usavano verbi raffinatissimi, sostantivi pregnanti, insomma. Direi in Ravelli il linguaggio è assolutamente referenziale. I verbi sono, appartengono alla vita di tutti i giorni. Si può dire che l'amore entra, esattamente si può dire che l'amore entra. O che la malattia entra. Credo di grande interesse questo chi, cioè non si sa che entra. E quindi questo ci dà un altro aspetto della compromissione con l'esistenza, insomma. Noi sappiamo che la nostra, nella nostra vita c'è qualcuno dentro di noi. Le persone meno sensibili questo naturalmente non lo avvertono, che c'è qualcuno dentro di noi. C'è la presenza d'amore, per esempio, tanto però se ne accorgono a cose fatte. Altro se ne rendono conto in tempo. Flaubert, quando parla, c'è cioè, la pagina della Donna lì, parla di come uno si innamora, diceva che uno pensa che ci siano dei tormenti spaventosi, delle tempeste che annunciano l'entrata dell'amore, ma non è così. Fa un paragone bellissimo, dice come quando piove nella grondaia del tetto è otturata. E allora il muro si inumidisce. E uno non si rende conto che l'acqua sta entrando, perché la grondaia è otturata, quindi l'acqua entra nel muro. Solo alla fine ti rendi conto. Solo all'ultimo ti rendi conto che il muro è fradicio. Così nell'amore. Così spesso purtroppo nella malattia. Uno se ne rende conto solo alla fine. Ho citato due esempi, insomma, di questo entrare, questo invadere, di cui ci si rende conto soltanto a un certo momento. Mi piace abbastanza questa idea dell'invadere, perché rispetto al mondo esterno siamo come dei territori nemici da invadere, non si può solo invadere cose di cui noi non siamo consapevoli, in realtà. Ecco, un altro concetto che mi piacerebbe che teneste conto, insomma, è quindi quello della, se vogliamo, della porosità dell'essere, nel senso che l'essere si lascia intravedere da cose esterne e non sa naturalmente di che cosa è intriso. Vedete come in questo panorama che viene definito così, eccetera, c'è proprio una netta contrapposizione fra il concetto di meccanicità e il concetto di esistenza. Questi due versi potevano risolversi con una soluzione, come dire, meccanica, entrare e uscire, invece hanno scelto un'altra soluzione, entrare, poi tra parentesi uscire e tra parentesi non ancora tornare. E questa scelta è proprio per far sentire il peso dell'esistenza. Chiaro tutto di qua? Vediamo adesso questo non è ancora tornato. Non è ancora tornato. Anche qui c'è un materiale di grosso peso. Cosa vuol dire ritornare? Ritornare è un verbo ricchissimo di emotività, perché presuppone un recupero del passato, e si ritorna a casa, bisogna vedere se si ritorna, mi viene in mente che una condizione, del dolore, Gab dice a un certo momento questa frase meravigliosa, questo mirabile libro, che nessuno mai ritorna, nessuno circola mai circola ritorna, nessuno mai ritorna. E ragionando un po' su questo concetto del ritorno, naturalmente la cosa che noi vorremmo più in vita è che le persone tornassero le persone defunte, finché poi ci abituiamo all'assenza. Ma se noi non ci abituassimo all'assenza delle persone, questo desiderio del ritorno sarebbe per noi facile far ritorno. Per fortuna ci abituiamo. In fondo uno dei temi più interessanti della storia della cultura occidentale è sempre quello dell'Odissea, di Ulisse, no? Ulisse tornato. Ulisse tornato. Ed è bello considerare un po' questo fatto che andava per mare. Ulisse aveva queste avventure meravigliose, poi terribili, spaventevoli, e poi tornava. Si è scritto tantissimo naturalmente su questo, che è considerato un libro da cui inizia la cultura del mondo occidentale, che è l'Odissea, che è l'Odissea. E ma perché torna Ulisse? Cioè, facendo due conti, Ulisse torna da una moglie vecchia, perché metti che l'avesse sposata a 15 anni, 20 anni, sono 35, gli anni esistevano. Tornava a una moglie di 35 anni, in quell'epoca in cui la curava 40 anni, si curava 40 anni, no, non siamo. Torna per amore? O forse torna perché l'essere umano vuole tornare? Quindi indipendentemente da temere, perché tornare vuol dire ritrovarsi. La religione cattolica, che colpisce con grande astuzia l'animo dei fedeli, usa concetti spessissimo come quello di tornare al padre, no? Sulla parola padre non c'è alcun dubbio, insomma, tutti vogliamo avere il padre, insomma, desideri, diciamo, parla Freud in tutta la sua opera, insomma, lancinante dell'essere umano. Il padre non ci abbandona, poi i padri muoiono, non esiste solo quel padre, ci sono padri succedanei, insomma, insegnanti, maestri, amanti, ma certamente questo bisogno di paternità è fondamentale, no? Chi è il padre? Padre è chi ti protegge le spalle, il punto di riferimento, insomma. Il punto di riferimento. Direi che una delle difficoltà che ha posto, per esempio, la religione cattolica era quella che nel Vecchio Testamento c'è l'idea di questo Dio che domina, ma non c'è l'idea di un figlio. Ecco, avere a che fare con un figlio, seppur attraverso per tutte le cose, il figlio e il padre, la copertura del padre, eccetera, è molto difficile, insomma. Sarei per dire che da questo punto di vista il cristianesimo insegue una dimensione psicologica abbastanza innaturale, uno non si innamora del figlio, si innamora del padre, insomma, è soltanto con dei grossi sforzi biologici che la religione persuade poi il fedele ad amare Gesù Cristo, riconoscendolo come tuo fratello, no? Ma nessuno amerà mai un fratello come si ama il padre. Il padre è la tua origine. Il padre non è un uomo. Vorrei dire che, per esempio, questo è molto interessante, perché uno dei mito della psicoanalisi, la figura dell'analista è vissuta secondo questa dimensione religiosa, su questo non c'è alcun dubbio. L'analista è il padre, e se l'analista è naturalmente una donna, reciproco, una madre, insomma. Questo è un grande tema che riflette, insomma. Si è presto a dire uccidere il padre. Sì, ma se uccido il padre poi cosa mi rimane? Noi praticamente abbiamo tutti perso il nostro padre, e tutti insieme. Ma è lì mi ricordo che al liceo un professore di fisica che era molto bravo, molto benissimo, allora mi sembrava grande, aveva 32 anni, un bambino, ma a quell'età che aveva al liceo mi sembrava insegnava molto, era quello che insegnava bene, poi insomma, un'inclinazione su cose scientifiche. Cioè, capire molto bene, ma bravissimo in fisica. Questo aveva perso il padre, allora. E siccome un giorno io gli parlavo delle confidenze, parlavo di certi problemi miei, lui, che aveva di me una grande ammirazione, bellissimo la classe, per le classiche dell'esistenza, non contano niente. Lui mi dice, ma tu hai tuo padre? Io dico sì. Dice, ma no, non c'è problema. Come non c'è problema? I problemi ce li ho. Ma no. I problemi nascono quando il padre si perde. Questo è molto interessante. Torniamo adesso a lui. Non è ancora tornato. Tutti sappiamo che cosa significa, quindi torna, andiamo a Ulisse. Ulisse torna, ma perché torna? Ulisse torna forse perché non può tornare. In fondo il grande Ulisse moderno che cosa fa? Steven cerca Bloom, il padre. Il problema è che se il padre non c'è, bisogna inventarselo. Quindi tu te lo inventi, appunto, può essere una figura carismatica, insomma. Quello che è sempre nel caso della vita politica conturbante, nell'ingenuità di coloro che aderiscono, eccetera. Sempre questo bisogno della figura carismatica, della figura paterna, no? C'è una specie di caccia al padre continua. Pater è la patria. I concetti sono gli stessi. Quando noi perdiamo il contatto con le etimologie, abbiamo dei contatti importanti. Proust dice che bisogna, come tante volte vi ho detto, quando si scrive, inseguire la propria patria perduta, cioè il proprio padre perduto. E comunque, tornando un attimo a Ulisse, volevo dire che Ulisse non torna affatto per amore di Penelope. Questo è il punto, secondo la mia. Ulisse torna perché l'uomo deve tornare. Vico parla degli eterni. Non di eterno, parla di ritorni ciclici, come sapete. E quel grandissimo, terribile, geniale, ammirabile sovvertore che è Nietzsche parla dell'eterno ritorno. Poco si sa dell'eterno ritorno, è un concetto difficile, ma spiegato a scuola, eccetera. Comunque l'eterno ritorno non vuol dire tornare al punto di prima. Tornare ritorno vuol dire tornare attraverso un cammino a spirale, cioè qualcosa di. Io non torno dal padre, ma torno dal quasi padre. Questo è il punto. E tornare dal quasi padre è una profonda sovversione, che naturalmente mi lascia spazio, perché se io tornassi al padre, stoppo, la mia vita non avrebbe alcuna evoluzione, capite? E quindi, insomma, Ulisse, che aveva avuto delle donne bellissime, è dopo da questa vecchia, e bisogna considerare queste cose. Ma poi la passione quanto dura in un essere umano? Cioè, la voglia che tu hai di accostarti sessualmente a una persona, quanto dura? Ma insomma, ci sono dei tempi tecnici, eh? 20 anni? Ma no, stiamo scherzando, 20 anni in assenza, ma passa tutto, passa l'amore, passa tutto, e allora perché torno a credere? Lasciando Circe, lasciando la Lusinca, eccetera. Torna perché l'essere umano è fatto per tornare. Qui è un pensiero ossessivo terribile. Plotino di Nicopoli, Plotino è un grande, l'Eneadi, è un grande libro, anche qui se non potete accostarvi direttamente, però. Buona divulgazione fa bene. Ricordatevi quello che vi dico, non temete mai le buone divulgazioni. Lasciate cantare, sono cretini quelli che vi propongono dei piccoli saggetti minuti su argomenti difficili. Buona divulgazione. Buona. Plotino parla di un ritorno all'uno. Sentite come tutto funziona nello stesso modo? Uomo disperso, eccetera, poi devo pian piano in una scala tornare questo Dio unico, questo Dio unico. Mi seguite bene? Qual è il principio del disordine? Forse ci siamo andati su terreni anche un po' più lontani dalla poesia, per questi aspetti non penso che sia una cosa interessante. È due il principio del disordine. Quando due si amano, no, quando due si amano, quando vanno a letto insieme, vogliono essere uno. Questo è il punto, insomma, nelle vecchie cose, alla Lorenz, dei Werner Lorenz, amanti delle ricette, il cazzo deve andare a venire proprio, deve uscire dalla persona. Ma perché questo? Perché avvenga una congiunzione che peraltro non è possibile. Ma noi abbiamo il mito dell'uno. Ricordo. Che insomma degnava le sue attenzioni, tra l'altro la mia allieva, tantissimi anni fa, che appunto auspicando una contubernalità con il sottoscritto, e diceva: ma questo sarebbe l'uno. Questo mi ricordo ancora, sono passati 20 anni, diceva: questo sarebbe l'uno. Mi colpì questa frase, ma non perché denotava il fatto che la ragazza fosse un'assidua lettrice di Plotino, quanto per il fatto che noi sentiamo il due come l'inizio del male. Vedete che parlando del concetto di ritorno tante cose vengono fuori, eh? La tua parola, dice Cristo, sia una, sì, no, no. Cristo non dice, in questa sapienza ebraica, la tua parola sia duplice, eh? È il demonio, è il serpente che ha la lingua bifida, è il due, è l'inizio della dissoluzione, ed è la dissolutezza, il due. Amerai un solo Dio, questo è il punto. L'adulterio è male perché introduce il concetto di due. E non si possono sovvertire le leggi della natura. Se uno dice: ma perché non bisogna tradire il proprio compagno? Non bisogna tradirla, questa è la risposta che io darei, perché, e questa è una bellissima risposta degna del sottoscritto, perché esiste il teorema di Pitagora. La vera controindicazione dell'adulterio e l'esistenza del fratricidio. Cosa intendo di qui? Il teorema di Pitagora, che è la cosa forse più bella, ma il più bello del teorema di Pitagora, sono più. Cosa dice il teorema di Pitagora? La somma. Dica ma che ne puoi allora sente la saldezza di questo ragionamento, di questo impianto, perché dico che il teorema di Pitagora, che è un teorema cardinale evidentemente della geometria, e questo teorema è sulla stessa lunghezza d'onda del fatto che 2 è male, non amerai nessun Dio fuori da me. Non è che nei comandamenti viene detto amerai me e se vuoi poi amerai qualcun altro. Non solo, non solo. Ma c'è, sempre parlando di questi fatti religiosi che insomma impermeano la nostra cultura, che uno ci creda o non ci creda, per esempio c'è un culto della Madonna che è diverso completamente dall'adorazione che uno riserva a Dio. Se uno dice adoro la Madonna, è un peccato, diciamo in una certa ottica, no? È un peccato. L'amore male indirizzato è un peccato. Ma perché è un peccato? Perché è un 2. È un 2, insomma. Questo è il punto che volevo dire. Quindi, tutto questo discorso tortuoso, spero abbastanza utile, ci fa capire. Quindi, tornando al concetto del ritornare di Ulisse, che Ulisse torna non per vedere, torna perché ha una coazione irresistibile dentro di sé a tornare. Poi naturalmente cosa accade quando qualcuno torna nella vita? Torna un antico amico, un antico amante. Non si sa quale cosa è peggio, se un antico amico o un antico amante. L'antico amico scopriamo che ci annoia enormemente. Con l'antico amico possiamo semplicemente dire ti ricordi. Io avevo un amico, facevo molto sport da ragazzo, andavo in bicicletta, facevo delle cose, montagne, cose di grande impegno agonistico. Con lui avevo in comune questo, oltre che sua sorella, che da lui favorito con la verità, credo con tutti i figli della famiglia, della famiglia voleva bene, insomma, un matrimonio e torna a fare una cosa. Tu, di che parlavo questo amico ritrovato? Parlavo della bicicletta. E poi di che parlavo? Parlavo della bicicletta. A un certo momento mi sono reso conto che non potevo parlare solo della bicicletta, bisognava parlare di qualcos'altro. Avrei potuto parlare di politica, però lì era poco ferrato. E allora mi rendevo conto che il ritorno di un amico è un qualcosa di molto difficile. Non parliamo del ritorno degli amanti, non parliamo. Eppure, nonostante il ritorno riservi tante delusioni, noi questo tema del ritorno lo abbiamo introiettato come fatto fondamentale, no? Le canzoncine che si suonavano negli anni 60 sono, che rappresentano in fondo una sapienza spicciola, più mi ricordo che era una che si chiamava Le colline sono in fiore e diceva ritorna amore, le colline sono in fiore. Il fiore e colline sono in fiore, quindi sperava di, attraverso questa presentazione di un calendario aprico e primaverile, di indurre, no? Siccome le colline sono in fiore, ritorna. Altro ci voleva. Ma insomma, il ritorno è possibile. Quando noi leggiamo un pezzo di letteratura come questo, le considerazioni che stiamo facendo, che ci sembrano latere, in realtà sono quello che chiede l'autore che noi facciamo. qui un punto sostanziale, no? Se no possiamo occuparci, come dicevo io, di cose ben più importanti, trovare qualcosa che riguardi l'AIDS, il vaccino per l'AIDS. La letteratura ci deve far pensare a tante cose, ma questa parola non mi lascia ancora tranquillo, la parola non è ancora tornata, perché sotto un altro aspetto possiamo vedere che qui è uno dei massimi errori della vita, ansiosi di tutto il mondo, unite, marzianamente, ansiosi di tutto il mondo, uno che aspetta la figlia, che aspetta mai il genitore come una casa, ha mai avuto da dire sui suoi ritardi, mai successo? No. Una volta ho rotto un rapporto con una mia allieva, che era molto raro, perché tornò a casa alle 6 del mattino, senza avvertire i genitori, la madre, che era una succuba di lei, una povera donna, che era una ragazza molto intelligente, lei era improverata, fino alle 6 del mattino, fuori, cioè così. Lei si adombrò, fece una scenata alla mamma e la mamma succuba non disse nulla. Per interposta persona l'ho odiata in quel momento, la figlia, nel senso che diceva, ma fa stare in ansia una persona. Uno tutto può fare, può permettersi al mondo, ma non quello di fare un'ansia una persona cara. Allora possiamo vedere, non è ancora tornato, non è ancora tornato. Quando uno non torna ancora, dicevamo, vedendo una persona cara, tu stai a guardare il muro, aspetti a nel mondo d'oggi, aspetti a telefonare. E poi entri in uno stato incontenibile di agitazione. Possiamo vederlo in questo modo, non è ancora tornato. Però possiamo anche intendere questo verso in un altro. È un nemico che si è allontanato, un nemico che è entrato nella notte e che si è allontanato. Non è ancora tornato, però può tornare. Vediamo che sia il sequestratore che ti ha sequestrato. Tu sei in catena, il sequestratore ti ha abbandonato lì, forse hai ancora una possibilità di fuga, non è ancora tornato. Però io vorrei che con queste indicazioni differenti, positivo e negativo, no? Non è tornato, c'è un oggetto d'amore che sta fuori e non è tornato, c'è un oggetto cattivo invece che sta fuori e non è tornato. Vorrei che sentisse la pregnanza di questo verbo tornare, no? Un epilettico che pensa che la crisi non è ancora tornata. Quando si sta male, quando stiamo bene, noi non guardiamo il nostro corpo. In un buon libro di Guido Ceronetti, che si intitolava Il silenzio del corpo, diceva: se il corpo sta zitto, vuol dire che non lo va bene. Quando il corpo parla, nel senso che il battito cardiaco diventa per esempio eccessivo, eccetera, e allora noi spiamo il nostro corpo per vedere se è tornato il sintomo negativo. Può essere una crisi, può essere un senso di depressione. Vedete come lavorando intorno a questo il ne parla ancora più, noi abbiamo delle determinazioni positive, cioè nel senso l'oggetto è positivo e siamo angosciati dal fatto che non torna, pure poco, l'oggetto è negativo, eccetera. Ma vedete che contrapposizioni ci sono? C'è una contrapposizione iniziale, che era quella dell'eternità e del minuto. Adesso c'è la contrapposizione tra non ancora tornato e l'entrare attraverso quell'elemento implicito che è uscito. È difficile il discorso, ma avete seguito. Benissimo. Adesso guardate un'altra contrapposizione. E la contrapposizione nel senso di questa poesia tra il passato e il futuro. Il passato è entrato e il futuro non è ancora tornato. Cosa congiunge passato e futuro? Se non l'esistenza. Se non l'esistenza. Questo è un problema abbastanza insoluto. È un problema abbastanza insoluto. Nel senso che, qual è il passato della mia vita? Ma io sono il passato. Eppure sono disperatamente proteso al futuro. Se uno non ha futuro davanti a sé, non vive più. Non vive più. Se io so che una persona che desidero non mi vorrà mai, io spero sempre che mi voglia. Vediamo che adesso non mi voglia. Però le vie del Signore sono infinite e quindi può anche darsi che mi voglia. Fermo restando che non è affatto detto che questa sia la felicità, ma io così penso. Se io so che sulla mia cartella amorosa, come nell'ergastolo, c'è scritto mai, è finita. Il futuro è quello che mi nutre. Noi siamo nutriti di futuro. In realtà il futuro non c'è, per definizione, eppure noi siamo nutriti di futuro. Infatti, quando ci sono persone che hanno poco futuro davanti, soffrono moltissimo. Il lavoro, pensate per i giovani, cioè questa trappola pazzesca che è la precarietà, e tutti i giovani soffrono. Non è questione, come normalmente si dice, non mi posso sposare, non posso restare una famiglia, dei figli. Quelli sono, come dire, epifenomeni di un'ansia, di un'angoscia. Il fatto è che non ho futuro, no? Se io ho un lavoro part-time, non part-time, scusate, un lavoro, un contratto a tempo, no? E dopo cosa c'è? E dopo cosa c'è? Direi cambia in un modo radicale la prospettiva di chi ha un lavoro, naturalmente non essendoci mobilità del lavoro come in Italia, tu sei in America, quel lavoro non c'è. Vai in un'altra strada, ne trovi un'altra, è un discorso diverso. Ma quelli che dicono, io arrivo a 40 anni, una ragazza ha finito il dottorato con me, adesso che può, quindi lo conosco, una ragazza molto intelligente, che ha scritto una lunghissima, bellissima lettera, dolcissima, eccetera. Poi c'è un dico, così sto bene per 3 anni. Sto bene per 3 anni. Ma noi accetteremmo una persona che ci dicesse, fermo restando, che possiamo morire dall'oggi all'indomani, vivrai per 3 anni, ma uno ha la paura veramente, hai 3 anni di vita. Se qualcuno andando dal medico si sente dire ho 3 anni di vita, insomma, magari muore domani, ma è una cosa che fa paura, insomma. Quindi il tutto è questo, che insomma, dove stiamo? Siamo imbevuti di passato, e su questo c'è anche dubbio. Io sono il passato. Io che vi sto parlando sono il mio passato. Lo sono in un modo capillare, sono i libri che ho letto, le persone che ho incontrato. Vi dirò delle cose anche più sottili, insomma. Sono le sicurezze che ho acquisito. Se non avessi avuto tante esperienze nella vita, non potrei parlarvi come vi sto parlando. Quindi io sono il passato. Starei per dire che sono transitoriamente il presente e che non mi accorgo del presente, ma sono certamente il mio futuro. Ho delle attese precisissime. Io so quello che vorrei fare quest'oggi, no? Come vedete, quando Bergson diceva che era difficile dividere le tre dimensioni, passato, presente, futuro, come fossero dei fatti fisici, aveva, ma è tardissimo. Interrompiamo un po'. È tardissimo. E aveva perfettamente ragione. Bene, mi pare che abbiamo fatto un discorso interessante. Continuiamo a chiudere questo discorso. Thank you. Grazie.